se parli forte, no? Parlo forte, se parlo a bassa voce, come parlo in su un pugno. E Marco, quando parlo a fianco a lui, Marco mi sente. Ciao. Ciao, la salute, benvenuto anche a te. Ma tu ti stai alzando, c'è la voce rauca, ti sei messa a gridare e io non ho capito niente. Adesso ho capito. Buongiorno anche a te, ciao Tardalì. Marco, non ci hai sentito? Cavalcava, ma è giornata un po' bruttina, un po' così, Sono 25 gradi oggi, domani. 25 gradi, è un freddo, 25 gradi. E anche alle peggio, quindi sicuramente se non stasera, stanotte piove, è tutto grigio qua, cosa vuoi dire? Ci sono le belle cariche, ci sono, sentato tanto che scarica forte. Lascia va che ci serve l'acqua, non ci lamentiamo che non ce n'è. Sì, almeno fosse buona quella del rubinetto. Anche io la rubinetto di mio, non ho mai bevuto anche il rubinetto. Io la bevo perché la bevo, e sapete quando vanno la luce, che è come l'acqua in bocca. Ma così è. Diventa un natalino, allora tardi ti sei alzato, e io sono riuscito a mettere il cane, sono andato a prendere il caffè, ma dopo esco di nuovo, dopo mezzogiorno, e io da lunedì già è finita, è rientro al lavoro, e uscì su Curibaro, andando in bambino, mi piace, che rottura, e io non sarei a casa, così, oddio, così. Io sono venuto a uscire presto, poi non me ne rientro, non esco più, devo andare anche al barbiere ieri mattina, invece non so potuto andare, adesso vado a mezzogiorno, è pieno di gente, e quindi ci vado martedì mattina presto, da Gigio, barba blu, sì, è vero me li faccio, bassi e bassi. Io mi tengo sempre corti corti. No, poi faccio fare la barba blu anche io. No, ma Gereste, va, sì, sì, per quasi. E tu mi vai a Gereste, aspetta la vostra, no, non ti ha detto, io aspetta la vostra bianca, tutta bianca. Anche se ce l'ho io bianca, sì, ma vai di ripetere niente, bisogna tapparli, tappali. Carità, la piena ieri. Anche venerdì ho provato la piena, un lavoro da Dio, un lavoro un bel, gli amici c'è. Infatti mi hanno detto, viene la chiusura sabato sera, e all'otto vengo là dentro, notte nato. No, noi ci vediamo martedì mattina, una culturata, e così siamo a posto. Antone, è andato c'era tuo fratello? No, oggi no. No, ci è andato. Va bene, va bene. Non c'è stato, va bene. Già va bene, già va bene. E andare a 10, te l'ho detto. Sono 70-70, 80-80, dipende. Vabbè. È un casino. È un casino. Sempre, sempre. Il nep a tutti. Faccio il segnale, sei 9.40 neanche, 9.30 Antonio, come mai? Il tuo segnale è 9.50 quando attacchi 9.60, sei 9.30, si arriva a quanto è Marco Condo? Così è. Di controllo, a breve non c'è il moro, va quasi mi sa sei. Che intende tu hai detto qui? Vabbè. Intanto riegai c'è cosa. Vabbè, andiamo a bruttarci. No, in fase di rientro no. Ha fatto una che era una brutta giornata. Oh, brutta giornata, Quando non c'è bella giornata non si arrostisce. Anche. Ma ne avevo un paio di sacchi di un amico che rientrato oggi da viaggio e glielo dovevo portare per forza. Ah, già riesce. Allora che va bene. Giornata così, non è adatto di acqua, non ha adatto niente. Ma c'è vento giù. La gente c'è, ma che è tutto anche la intro. Capito? Non ha voglia di mettere in moto il barbecue. Stanno andando a parata a preparare il posto. No, non è giornata da fare furia. Soprattutto lì nella zona del mare. Ci sta bene col caminetto dentro, un altro che fuori esce. No. Vince Antonello Alessio, per far prendere un liccio, Antone, c'è anche Natalino, non so se lo senti, Natalino, lo tengo a farlo, a fare il ciulo, a fare il ragù. Ciao, fino a c'è, beh, sentite, sono fuori, non so cosa vuol dire, dico le squadre mie, non capito cosa abbiamo riappreso, in quanto altro è mancato l'eccezione un po', se la portate non sale, bene, non me l'ha mai fatto un gioco del genere. Questo è il tuo, 9.45, questo sei tu. Adesso siamo nel 2009 adesso. No, ci ha rotto giù un bippe. Vai, venù. E questa è l'ambulanza da appare. Questa ambulanza. Un appare del bippe. Sì. Che già l'età a questa del candeliere. Come già mi sta bene, ragazzi, che... Avere vento. Il vento c'è, cioè, non lo so, poco fa ho visto l'antenna verticale, io da lì me ne accorgo, era di Biccio, Valghero. Adesso non so se è girato a greccare, c'è uno di fianco e sicuramente gira maestrale di nuovo. Meno male, va segnato una bella giornata, con un bel po' di sole, temperature alte, oggi c'è andato strano a me. Perché lui su, cioè non rientro sotto, cosa c'è? L'altro baracchino acceso? No. No, adesso già va bene. Aspetta a mangiare il cane, parla con Pinuccio, aiuto, un minuto. Ehi, dai la mangiata. Ci ringrazi. Cava, già va bene, appena esci, giamba. Tanto quella era lunga la prima. Dopo due minuti già cioè, ci riascolti. Già ha bisogno, ha voglia. E così, andende sto, più che altro. Faccio la maratona alla sassa di attesa, ogni tanto che c'è Giampiero ricoverato lì, gli hanno portato la sassa di attesa, ci hanno messo in mezzo a quella specie di tugurio di ospedale. Quello che si chiama ospedale, lì si chiama tugurio. E tu beh, vicino forse almeno, 40 km andare, 40 tornare, sono soliti pure. E a Chiesi adesso non vedo l'ora, guarda, che mi diano tutto. Letto quanto c'è, me lo porto a casa qua giù e me lo sta tranquillo qua, non devo stare a girarmi le palle di volta a metterci 20 euro di benzina, 20 euro di spesa. E non ci può mai andare tutti i giorni perché non fa. Deve avere una volta a settimana o due volte a settimana. Ogni tanto già lo vedo a Mario. Infatti su era solo come un cane e non si è passata bene lo picchiano, quindi sempre in giro in macchina e poi se ne va a città mercato a farsi un giretto, tutto così ancora. E c'è una poca di ferraglia da vento, da di che muore il fratello, prende la ruspa e ti va a fare tutto, ci saranno gli avvoltoni a pigliarsi tutta quella mondezza. Tutti andando in Rumeni lì col camioncino si caricano tutto, fanno un po' di rame. Poi tutto mezzo di piccioni dentro, cosa ricopri? C'è poco a recuperare me, tutto mezzo di piccioni, c'è forse si sa per qualche cosa, ma non penso perché c'è il vetro di frontale dove c'è la porta in ferro che è rotta, ci entra le piccioli dentro, quindi immagina di più le pulci che ci saranno quando torni in un apparecchio. E non nel garage di qui, a Santa Maria sto parlando, nel garage di qua già la roba c'è ben tenuta là. E un po' di fatto c'ha rame di apparecchi vecchi di quelli, capito? C'ha tutto buttato lì, trasmettitori FM, trasmettitori per TV, antenne per TV, ma no, no, gli ho detto un sacco di volte, vai e vendi di tutto, no, glielo metto su eBay, piano piano me li vendo, e ancora a vendersene. E tu mi dici non ti hanno detto più di 300-400 euro per pezzo, gli ho detto, me l'hanno credi. E me li ho pagati milioni, e da pensare così, e tutto, che ti creano milioni, per picchiare un pezzo buttato lì. No, sta proprio niente, no, ormai ci sono i piccioni, quando ci sono i piccioni ci sono i pulci, è un casino, per la carità, vuole tutto disinfettato, prima di prendere la roba in mano, se no ti riempi di malattie, capito? E allora l'avessi venduta per dire che avrei fatto qualche spiccio, invece nulla, tutto lampato in chivi, ho detto un sacco di volte, non mi ricordo la retta, a me ha passato un coso asciutto, diciamo un garage asciutto, ci avevano la roba come si deve, sai, se c'è piccioni, lì ci stavano anche i tubi senz'altro, se ci sono i piccioni ci sono stati anche i tubi, questo è poco ma sicuro. E dopo è più il garage, i piccioni sono maledetti, e poi i piccioni portano più tubi, portano più tubi. E un po' di tubi si sarebbe fatto, non dico molto, ma meno un migliaio di euro si sarebbe fatto, penso 1.000-1.500 euro tutto quello che c'è dentro. Deve essere al telefono, c'è anche due macchine, le buttate là coso, lì le ha fatte sloggiare da Santa Maria, due macchine vecchie, una 600 e una 500, tutte a Buginotto, ce le ha portate all'hotel che c'è lì delle Dante, nei garage che sono lì. Cosa dà lui? Cosa dà? Lui è fatto così, se la roba la vede la vetta, un sacco di là, capite, quando sta sta sua. E fa abbigliare questa cosa, lui. Di tutto c'è motori di 500, montati, figurati. C'è anche una di quelle macchine antiche, non mi ricordo come si chiama, non viene neanche il nome. C'era lì in mezzo alla Mondezza lì a Santa Maria, mi pare che era la Balilla, se non mi ricordo va, adesso si è abbassato, dove si è dietro la cemeteria, intanto si è sceso quasi a zero, e quella c'è la gonfia lì, adesso quando fa la vita di coso lì, la salitella, già ti sento meglio. Scusate, ma dove sei Pinuccio? Sporcano Pinu, sporcano parecchio, ho capito, qua c'era una manciata nel mio palazzo, uguale alla mia, che è quelli delle scale, hanno lasciato una finestra aperta e sono entrati tutti dentro, ma tu devi vedere come hanno fatto questa manciata, hanno dovuto chiamare una ditta specializzata per proprio disinfestare tutto e fare pulizia, a chi era tutto, ce n'erano anche morti di piccioni, figurati tu. E allora, tutto così è infatti, andrà bene dai, prima che ti perda Pinù, ci sentiamo, stammi bene, buona domenica, buon rientro e buon tutto, ok? No, mercoledì rientro Pinù, mercoledì, perché oggi finisco la cura e quindi lunedì e martedì me la prendo come riposo, sto facendo delle punture che mi faceva male, un bella gamba, capito? E quindi le termino oggi, le punture, e poi mercoledì me ne rientro al lavoro. Lunedì e martedì sono a riposo e mercoledì rientro al lavoro. Sì, Pinù, va bene. Il più è passato, devo stare attento a non riprendere qualche altra infezione, ma comunque diciamo che linea di massima va bene, dai. E ho fatto 24 punture di penicillina, cortisone, tutto, quindi la ferita oramai è chiusa e non ci sono problemi. Però devo stare molto attento, mi ha detto l'ottorino, capito? È infezione, bisogna stare attenti, lo lavoro io. Bisogna stare molto attenti, in certi lavori bisogna usare la mascherina, io non ne stavo usando e quindi mi ha fregato. Va bene. bene, dai, ti saluto fino, e dopo esco pure me. Dopo mezzogiorno esco a prendermi il giornale e poi me ne riesco.